Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. In Sankhya, il suo romanzo sui Nazbol, Zakhar racconta una conversazione fra il protagonista e un vecchio insegnante che gli vuole bene e cerca di capirlo. L'insegnante ha sfogliato con curiosità alcuni numeri di Limonka. Il nome del partito, la bandiera e gli slogan lo mettono a disagio, ma acconsente a interpretarli come provocazioni, sulla scia dei surrealisti francesi da lui venerati. Le azioni dei militanti, disegnare graffiti sui treni, srotolare striscioni sul frontone di monumenti difficili da scalare o, in occasione di cerimonie ufficiali, lanciare pomodori sulla giacca del governatore, gli sembrano al contempo immature, simpatiche e coraggiose. Simpatiche perché coraggiose. In Russia non si scherza con l'ordine pubblico e quelle bravate goliardiche che in Europa occidentale si concluderebbero con una multa costano ai loro autori pene detentive che essi scontano con orgoglio. Il protagonista del romanzo, e immagino Zakhar stesso 10 anni prima, parla della patria, delle sofferenze della patria, dell'essenza della patria, con fervida e ombrosa serietà. L'insegnante è preoccupato da questi discorsi e dice al suo studente di un tempo che quando i russi cominciano a montarsi la testa con la loro patria, a parlare della grandezza del loro impero o della santità della loro missione, e a dire cose come «la Russia non bisogna cercare di capirla, bisogna crederci», allora i guai sono dietro l'angolo. «Sarebbe molto meglio», continua il professore, «se per una volta si lasciasse i russi vivere o cercare di vivere una vita normale. Per ora è difficile, ma ci si arriverà. Per ora ci sono pochi ricchi e molti poveri. Ma sta crescendo una classe media che aspira soltanto al benessere e a vivere al riparo dagli scossoni della storia, e per il nostro paese non c'è nulla di meglio». No, il protagonista di Zakhar non la pensa così. Lui vuole di più, vuole altro. «Ma cosa? Più cosa?» si altera il professore. «Più ordine, più disordine. A leggere il vostro giornale non si capisce che cosa avete in testa. Sbraitate Unione Sovietica, Unione Sovietica. È questo che volete? Tornare indietro? Restaurare il comunismo?» Non è una domanda retorica. È quella che si pone alle elezioni presidenziali del 1996. Dire che le elezioni partono con il piede sbagliato per Yeltsin e i democratici è un eufemismo. La terapia shock e la prima ondata di privatizzazioni hanno avuto conseguenze devastanti. Il paese è piombato nel caos e la maggior parte della popolazione considera quello che è successo dopo il 1989 né più né meno una catastrofe storica. Yeltsin, in cui sono state riposte tante speranze, sembra non avere più il controllo di niente. Barricatosi nel Cremlino, ha rapporti soltanto con i familiari e il responsabile della sicurezza, una specie di tonton macute di nome Karyakov, e cura quelli che chiama i suoi pensieri neri, chiaramente una grave depressione, bevendo oltre ogni ragionevole limite. Per quanto comprensivi siano i russi nei riguardi dell'alcolismo, non trovano più molto divertente che il loro presidente si presenti ubriaco fradicio a ogni vertice internazionale in cui li rappresenta. E si vergognano profondamente quando, sul palco destinato alle autorità convenute a Berlino per la commemorazione solenne della vittoria del 1945, lo vedono prima ciondolare il capo, poi mettersi a scandire il tempo con un'espressione sempre più allegra e infine alzarsi barcollante sotto lo sguardo attonito degli altri capi di Stato e cercare di dirigere lui stesso la banda militare. L'alternarsi di momenti di euforia etilica e di cadute nei buchi neri della depressione è un terreno favorevole, come si vede nel caso del capitano Haddock, alle spinte bellicistiche dei falchi dello Stato Maggiore, i quali si fanno suggerire dal venale Karyakov il momento psicologicamente più adatto per convincere Yeltsin che una guerricciola ben condotta contro i culi neri taglierebbe l'erba sotto i piedi ai nazionalisti e restituirebbe al presidente la popolarità svanita. Prima di venire assassinato, mio cugino Paul Klebnikov, che vi garantisco era quanto di più lontano vi fosse da un complottista, spiegava l'azione dei falchi con questa tesi. La Cecenia indipendente dal 1991 e governata da un ex apparatchik sovietico convertitosi in men che non si dica all'Islam. Era senza alcun dubbio una zona franca per la criminalità organizzata, un crocevia del traffico di droga e di valuta falsa. Ciò nonostante la Russia, benché la fetta di torta destinata le si fosse rimpicciolita, continuava a trarne il proprio utile e non aveva nessuna fretta di intervenire. Aveva fretta, invece, di nascondere la massiccia corruzione degli alti comandi militari. I generali avevano venduto al mercato nero enormi quantità di armi, di munizioni e soprattutto di mezzi corazzati, e avevano bisogno di un grande conflitto in un luogo qualsiasi per far passare come ufficialmente distrutto in guerra il materiale sottratto. Non so se questo motivo sia stato determinante come pensava Paul. Sta di fatto che l'esercito russo non ha badato a spese. Nella fase culminante dell'assedio di Sarajevo si contavano 3.500 esplosioni al giorno, mentre già all'inizio dell'assedio di Grozny, nel dicembre 1994, le esplosioni erano 4.000 all'ora. La città è stata rasa al suolo come Vukovar, ma i ceceni, fedeli alla fama di coraggio e crudeltà, di cui godono da due secoli nella letteratura russa, hanno reagito con una guerriglia senza quartiere, bruciando i soldati russi nei loro carri armati e compiendo sanguinari attentati in territorio nemico. I 40.000 giovani, tra i quali Zakhar Prilepin, richiamati sotto le armi con la promessa di una guerra lampo vittoriosa e di un trionfale ritorno a casa, si sono così ritrovati impantanati in una situazione non meno orribile di quanto lo era stato l'Afghanistan per i loro padri e i loro fratelli maggiori. Dal ritiro delle truppe dall'Afghanistan, ordinato da Gorbaciov nel 1988, sono trascorsi solo 6 anni di pace, prima dell'inizio di un'altra sporca guerra, da cui ancora una volta i giovani russi tornano, quando tornano, storpi, umiliati, stravolti. Yeltsin, così amato all'inizio, è ora più odiato del suo predecessore, e le elezioni presidenziali sembrano mettersi così male per lui che pensa seriamente di annullarle, come gli ripete nella sauna il tonton Makut Karyakov: Boris Nikolaevich, la democrazia è una bella cosa, ma senza elezioni si è più sicuri. Stavolta l'alternativa non è rappresentata da un istrione come Zhirinovsky, ma né più nemmeno dai comunisti. 5 anni prima Yeltsin ha dichiarato fuori legge il partito. Sembrava si fosse chiuso per sempre il terribile e grandioso esperimento condotto sul genere umano in Unione Sovietica. Ora, dopo appena 5 anni di vita democratica, tutti i sondaggi sono concordi e bisogna arrendersi alla sconcertante evidenza. La gente non ne può più della democrazia, del mercato e dell'ingiustizia che si portano dietro e si appresta a votare in massa per il Partito Comunista. Il suo leader, Zhuganov, non propone di riaprire i gulag o ricostruire il muro di Berlino. Con l'etichetta comunista, questo politico scialbo e prudente non vende tanto la dittatura del proletariato, quanto la lotta contro la corruzione, un po' di orgoglio nazionale e la missione spirituale della Russia ortodossa di fronte al nuovo ordine mondiale. Zhuganov dichiara che Gesù è stato il primo comunista. Promette che se diventerà presidente, i ricchi saranno meno ricchi, i poveri meno poveri. E almeno sul secondo punto del programma avrebbero dovuto essere tutti d'accordo. Chi vuole davvero che i vecchi muoiano di fame e di freddo? Ma l'idea che si proponga di renderli meno ricchi spaventa gli oligarchi. Tanto più che questi hanno appena escogitato un'incredibile frode in cui hanno coinvolto Yeltsin e che permetterà loro di diventare ancora più ricchi, i prestiti in cambio di azioni. L'idea è semplice. Le banche degli oligarchi prestano denaro allo Stato, che ha le casse vuote, e in cambio lo Stato dà impegno i gioielli non ancora privatizzati dell'economia russa, gas e petrolio, le vere ricchezze del paese. E se i prestiti non vengono rimborsati entro un anno, gli oligarchi passeranno all'incasso e diventeranno proprietari dei beni dello Stato. Il termine scade dopo le elezioni presidenziali e dunque per gli oligarchi è di cruciale importanza che a quella data il presidente sia ancora Yeltsin e non Zhuganov, che per dare prova della propria integrità potrebbe invalidare l'accordo. La cronaca vuole che gli oligarchi si siano accorti del pericolo al vertice di Davos, dove si riuniscono gli ultraricchi e gli ultrapotenti del pianeta. Nel 1995, infatti, Zhuganov, che gli oligarchi considerano un ridicolo politico da strapazzo, ha avuto l'impudenza di presentarsi a Davos, dove gli ronza attorno uno sciame di giornalisti e di consiglieri di capi di Stato che raccolgono le sue parole, peraltro moderate, con il rispetto dovuto al futuro padrone della Russia. Cazzo, pensa Berezovsky, il più rappresentativo degli oligarchi, l'uomo che tutti adorano odiare perché è ebreo, geniale e privo di scrupoli. Berezovsky va a farsi un goccetto con George Soros, il grande finanziere americano, che in Russia ha messo in piedi fondazioni e programmi filantropici di ogni genere. Insomma, dice Soros, pare che si preparino a riprendervi la torta prima che abbiate finito di spartirvela. Già, sospira Berezovsky. Può anche darsi, aggiunge suavemente Soros, che vi spediscano in Siberia. Ragazzi, fossi in voi sarei attento. Questo dialogo mette in agitazione Berezovsky, che seduta stante chiama sui loro cellulari gli altri 6 oligarchi più potenti di Russia, proponendo loro di accantonare per il momento le divergenze. La più spettacolare è quella che oppone lo stesso Berezovsky a Gusinski. I loro eserciti si ammazzano senza ritegno e di unire le risorse per fare rieleggere il vecchio zar. I 7 riversano nella campagna elettorale tutta la loro forza finanziaria e mediatica. E la loro forza mediatica significa tutti i media. Tutti i giornali, tutte le radio, tutti i canali televisivi ripetono ossessivamente questo messaggio. O Yeltsin o il caos. O Yeltsin o il grande salto indietro. E perché nessuno si scordi o idealizzi quel che è stato il comunismo, vengono diffusi 24 ore su 24 terrificanti documentari sui gulag, sulla carestia pianificata da Stalin in Ucraina, sul massacro di Katyn. Vengono prodotti grandi film sentimentali sulle purazioni, come Solo ingannatore di Nikita Mikhalkov. A me questo film piace molto, ma posso immaginare quanto debba essersi incazzato Limonov se lo ha visto. Lui che ha sempre avuto il dente avvelenato contro Mikhalkov, discendente di una grande famiglia della nomenclatura culturale, amico dei dissidenti purché non vi fossero pericoli da correre, ben voluto da tutti i regimi e diventato, logicamente, il bardo della controrivoluzione. Quelle dace sotto il sole estivo, quelle famiglie numerose e contente che trascorrono giorni sereni e il subdolo commissario politico che per invidia e fanatismo manda in frantumi tutta quella felicità. Solo ingannatore è un film staliniano alla rovescia. E allora, staliniani per staliniani, Edouard preferisce gli originali, che erano meno furbi e avevano l'autenticità di ciò che si è visto da piccoli. Anche i Nazbol dell'età di Zakhar sono disgustati da quell'ondata di propaganda che nega quanto gli è stato insegnato ad amare e mette l'ideale per il quale hanno combattuto i loro padri sullo stesso piano del nazismo. Che fare di quel disgusto? Come tradurlo in una posizione politica? I Nazbol vorrebbero che il loro capo glielo dicesse, ma per lui Yeltsin e Zhuganov sono uno peggio dell'altro. Edouard non trova niente di meglio che allearsi con il blocco staliniano, un gruppuscolo ancora più ininfluente del suo, per poi cedere il posto di candidato di quell'assurda coalizione a un certo Viktor Giugasvili, che non è soltanto il pronipote di Stalin, ma anche il suo sosia, con tanto di baffi e pipa. Al secondo turno, Dopo il primo, Yeltsin ha avuto un infarto che è stato tenuto il più possibile nascosto. Limonov deve pur dire ai suoi Nazbol per chi votare. E allora li sorprende con la teoria secondo cui più si precipita nel caos e meglio è. Quindi Yeltsin. Questa finezza non gli sarà perdonata e sarà all'origine della voce che fa di Limonov, sotto le sue arie da provocatore, un agente al soldo del Cremlino. Lui stesso trarrà dall'episodio la conclusione che in politica bisogna diffidare dei paradossi. Le masse non li capiscono. Il Mein Kampf è chiarissimo a riguardo. In realtà, in questo momento hanno tutti l'impressione che Limonov sia fuori di testa. Ed è vero, è fuori di testa perché Natasha l'ha appena lasciato. Non so granché circa i motivi e le circostanze che hanno spinto Natasha ad andarsene. Le opere di Limonov di questo periodo sono molto meno personali di quelle giovanili, ma sembra che abbia reagito in modo non meno parossistico di quando era stato piantato da Tania. Un testo piuttosto delirante, scritto a caldo, fornisce della fine dei loro 13 anni di vita in comune un'interpretazione filosofica e mistica in cui si riconosce l'influenza di Dugin, che non ha ancora abbandonato la nave. Edward racconta di coincidenze inquietanti, sogni premonitori, vagabondaggi allucinati e persino, lui così prosaico e insofferente verso il maestro e Margherita, di un assai poco credibile incontro con il diavolo per le strade di Mosca. Consulta un'indovina e questa gli dice che in una vita precedente lui era un cavaliere teutonico e Natasha una prostituta da lui protetta. L'interpretazione gli sembra illuminante. Sì, lui l'ha protetta come un prode cavaliere, l'è stato leale, fedele, come lo è stato nei confronti di Tania, e Natasha, come Tania, lo ha tradito. Edward cerca di convincersi che Natasha è indegna di lui, che merita solo il suo disprezzo, ma mentre cammina fino allo sfinimento nella soffocante estate moscovita, non può fare a meno di ripetere tra sé, come una litania, la descrizione del corpo di lei. Le grandi mani, tanto agili da parere disarticolate, i candidi seni, un po' cascanti, la fica sempre umida, sempre pronta per il suo cazzo e purtroppo per quello di altri uomini. Lei lo arrapava come nessun'altra donna in vita sua, a parte Tania. Edward pensa al modo in cui Natasha si masturbava, nuda, sulla tazza del cesso, nel loro monolocale di Rue de Turenne, sognante, senza smettere di fumare. Steso sul materasso, lui la guardava dalla porta aperta. Ricorda il giorno in cui, tornato dalla sua catastrofica campagna elettorale, l'ha trovata gettata di traverso sul letto, ubriaca. E Natasha, quando si è accorta di lui, gli ha detto: «Mi sgriderai dopo, prima scopami». Sebbene Dugin gli ripeta con solennità la frase di Nietzsche che gli amici colti tirano sempre fuori in occasioni simili: «Tutto quel che non mi uccide mi rende più forte», Edward soffre come un cane. Darebbe la vita per affondare ancora una volta nel ventre di quella cantante sublime e fallita, di quella alcolizzata, di quella ninfomane, di quella creatura degli abissi e dell'eccesso che ha avuto l'incredibile fortuna, pensa lui, di essere la donna di Edward Limonov e che adesso ha l'impudenza ancora più incredibile di non volerlo essere più. Questo periodo di semidelirio termina subito dopo le elezioni ampiamente truccate che danno la vittoria a Yeltsin. Una sera, mentre Edward sta tornando a casa da solo per una strada deserta, gli piombano addosso tre tizi che lo scaraventano a terra e lo riempiono di calci alle costole e al volto. Non vogliono ucciderlo. Se avessero voluto, avrebbero benissimo potuto farlo. Ma l'avvertimento è serio. Edward resta in ospedale 8 giorni e per poco non perde un occhio. Si è chiesto spesso chi gli abbia mandato quell'avvertimento e perché. L'indiziato principale è il generale Liebied, ex paracadutista, eroe della guerra in Afghanistan, che sembra un Arnold Schwarzenegger in versione lievemente più massiccia e ha fama di ruvida onestà. È arrivato terzo alle presidenziali e molti in Russia, ma anche in Occidente, lo considerano una specie di De Gaulle siberiano. Alain Delon, rivelando un inaspettato interesse per la politica interna russa, gli ha espresso il proprio appoggio dalle pagine di Paris Match. Edouard invece lo odia. Primo, perché odia più che i suoi avversari naturali quelli che occupano la sua stessa nicchia di mercato ma con più successo di lui. E questo è il caso di Liebied, per la categoria uomini veri. Poi, perché nonostante sia un generale, Liebied si è opposto con coraggio alla guerra in Cecenia e non si risparmia nel tentativo di trovare una via d'uscita onorevole. Il giornale di Edouard conduce una violenta campagna contro di lui. E sebbene Limonka sia soltanto una fanzine stampata in 5.000 copie e letta da punk di provincia, non si può escludere dopo tutto che l'onesto generale o qualcuno dei suoi abbia manifestato la propria irritazione, come si è soliti manifestarla in Russia anche nei migliori ambienti. Da quel giorno, comunque, Edouard non farà più un passo in strada senza la scorta di tre Nazbol, la cui stazza è un chiaro deterrente. Non è l'unico. In Russia tantissima gente ha le sue guardie del corpo private. Una volta a Mosca ho rimorchiato una ragazza che ne aveva una. Al ristorante, mentre le facevo gli occhi dolci, da sopra la spalla della ragazza vedevo il suo gorilla. Cenava al tavolo vicino, con il volto assolutamente inespressivo. Nel prosieguo della serata è rimasto di guardia davanti alla porta. All'inizio è un po' sconcertante, ma poi ci si fa l'abitudine. Gli stranieri arrivati in Russia in cerca di fortuna, uomini d'affari, giornalisti e avventurieri, parlano con nostalgia del secondo mandato di Yeltsin. Gli anni 1996-2000 sono stati il periodo più rock and roll della loro vita. In quegli anni Mosca è il centro del mondo. Da nessun'altra parte le notti sono tanto folli, le ragazze tanto belle, i conti tanto salati. Tutto questo naturalmente per quelli che possono permetterselo. Ma quelli che non possono, nessuno più li sente. Non scendono in piazza nemmeno quando il crack del 1998 manda in fumo per la seconda volta in 10 anni tutti i loro poveri risparmi. Se ne stanno nei loro squallidi bar, intontiti, ipnotizzati dalla televisione, che mostra soltanto il mondo da favola dei ricchi che abitano nelle metropoli, le splendide ragazze che pagano distrattamente con una carta gold un piatto di sushi che costa come lo stipendio annuale di una maestra, e i giovanotti arroganti, circondati da un esercito di guardie del corpo con auricolare, che vanno in aereo privato a Courchevel per fare il bagno nelle loro jacuzzi riempite di Veuve Clicquot. La rapina dei prestiti in cambio di azioni ha funzionato, al di là di ogni aspettativa. Hadarkovsky, per esempio, ha acquistato per 168 milioni di dollari la compagnia petrolifera Yukos, che guadagna 3 miliardi all'anno. Ora gli oligarchi hanno tutto, assolutamente tutto. Patrimoni immensi, costruiti sulle materie prime e non sulla tecnologia. Patrimoni che non creano ricchezza pubblica e svaniscono in un opaco intreccio di società offshore, a Vaduz o alle isole Cayman. Ci si può scandalizzare, ma si può anche dire, come mia madre, sono dei banditi, ovviamente. Ma questa è soltanto la prima generazione di capitalisti russi. In America all'inizio è stato lo stesso. Gli oligarchi non sono onesti, ma fanno crescere i loro figli in ottimi collegi in Svizzera, perché possano loro sì concedersi il lusso di esserlo. Vedrai. Aspetta la prossima generazione. Anche la politica viene privatizzata. Il libro che il mio coraggioso cugino Paul Klebnikov ha tratto dalle sue inchieste su Berezovsky si intitola Godfather of the Kremlin, perché Berezovsky è esattamente questo, un padrino. Nel momento del trionfo non si distingue per riservatezza e non perde occasione per ricordare che in Russia il potere è lui, che se il vecchio zar è ancora sul trono lo deve a lui e che in cambio Yeltsin farà tutto quello che vorrà lui. L'opposizione è allo sbando. Il popolo catatonico. E Edouard, in assenza di un obiettivo verso cui dirigere la propria strabocchevole energia, freme di rabbia. Il pestaggio subito non lo ha affatto calmato. Natasha è stata sostituita da Lisa, una incantevole e longilinea punk di 22 anni che somiglia a Ampar Yo in Nikita ed è pazza di Edouard. ma per via delle aspettative che ha sul proprio destino, a lui non bastano né questo nuovo amore, né la direzione di un giornale underground, né la letteratura. Se un artista, scrive, non capisce per tempo che deve dedicarsi a qualcosa di più elevato di se stesso, come un partito o una religione, allora lo attende un miserabile destino, fatto di sbronze, trasmissioni televisive, pettegolezzi, meschine rivalità e per finire un infarto o un cancro alla prostata. La religione la tiene da parte per il futuro, il partito ce l'ha, e anche se non sa bene che farne, è comunque qualcosa, una forza. E per misurare questa forza, decide di organizzare un congresso. Sono arrivati, ci sono tutti, no, non tutti, in Russia sono 7.000, ma parecchie centinaia sì, sbarcati da ogni parte del paese, come per un festival rock. I delegati più impazienti, giunti con qualche giorno di anticipo, si sono sistemati nel bunker. Per gli altri sono stati allestiti dei dormitori, in un alloggio per lavoratori. Non è stato facile nemmeno trovare una sala. Ogni qualvolta un proprietario accettava, tornava il giorno dopo per dire che a pensarci bene no. Nel frattempo la polizia doveva avergli spiegato che non si trattava di una buona idea. Fino all'ultimo Eduardo e i suoi hanno temuto il peggio. Un allarme bomba, delle provocazioni, un divieto pure semplice. Ma il peggio non accade e il congresso si apre. Eduardo è sul palco sotto l'immenso poster di Fantomas ed è raggiante. Sono 3 anni che lui e pochissimi altri si sbattono per portare nelle stazioni le copie del giornale che poi viaggiano verso remoti paesini. E oggi vedono il risultato. Delle persone concrete, dei fratelli. Non sono i Siegfried che sognava Dugin, ma cupi e furuncolosi adolescenti di provincia, dalla pallida carnagione chiazzata di rosso, che camminano per strada in colonne e se per caso entrano in un bar, si mettono a contare imbarazzati i soldi, si guardano i grossi scarponi e ordinano una consumazione in 4. Clienti poveri in Nazbol, che temono di essere ridicoli e mostrano i denti per paura di essere presi in giro. Senza Eduard sarebbero alcolizzati o delinquenti. Lui ha dato un senso alle loro vite, uno stile, un ideale, e per questo i Nazbol sono pronti a morire per lui. Eduard è fiero di loro, fiero che ora ci siano tra loro delle ragazze che, come ha osservato Zakhar Pliepin, sono o bellissime o bruttissime, non c'è via di mezzo, ma anche le brutte sono benvenute e la più bella di tutte è la sua, quella lunga Lisa dal cranio rasato che lo guarda amorevolmente mentre lui parla, avvolto dall'adorazione di tutti. Eduard dice che la Russia è governata da gente vecchia, straricca e corrotta e che sono loro, i Nazbol, l'avvenire del paese. Il solito ritornello, ma dice anche altro, su cui ha molto riflettuto. E cioè che la situazione politica non è matura. L'uomo davvero grande, come ha ripetuto invano a quell'imbecille del generale Rutskoy dentro la Casa Bianca assediata, sa capire quando la situazione è matura. E in quel momento no, non lo è. Le coalizioni alla cazzo di cane con ortodossi antisemiti o pronipoti di Stalin è meglio lasciarle perdere. Per ora i Nazbol non prenderanno il potere in Russia. Un giorno sì, ma non ora. Tuttavia non dovranno accontentarsi di leggere Limonka e strimpellare le loro chitarre in un cantuccio. C'è qualcosa da fare. Non nel paese stesso, ma alla sua periferia. Nei territori abbandonati dal traditore Gorbaciov, il quale, oltre ai territori, ha abbandonato 25 milioni di russi che erano i quadri dell'Unione Sovietica e che da quando l'Unione Sovietica ha smesso di esistere non sono più nulla. Quei russi prima portavano la civiltà, ora sono accerchiati dall'Islam o dall'ideologia democratica e non si sa quale dei due sia peggio. Prima dominavano, ora sono umiliati, ostracizzati, nel migliore dei casi tollerati in paesi che a loro devono tutto e sono stati irrigati dal loro sangue, proprio come i serbi nella ex Jugoslavia. Il traditore Yeltsin non è voluto correre in aiuto dei serbi e non correrà in aiuto nemmeno dei 900.000 russi in Lettonia, degli 11 milioni di russi in Ucraina, dei 5 milioni di russi in Kazakistan. La nuova battaglia consisterà dunque nell'accendere focolai di insurrezione in questi territori e incoraggiare la creazione di repubbliche separatiste. Due sono gli obiettivi: i paesi baltici e l'Asia centrale. Nei paesi baltici il partito è già ben radicato, con un centinaio abbondante di Nazbol a riga. Per quanto riguarda l'Asia centrale, Eduard è in grado di annunciare che compirà lui stesso una spedizione per sondare il terreno. Partirà presto e conta sulla compagnia di una decina di coraggiosi. Tutte le candidature sono ben accette. 100 mani si alzano, esplode l'entusiasmo generale, si scatena un uragano di applausi. Per i più arditi fra i Nazbol si apre una nuova frontiera. È un momento storico. Proprio come quando, pensa Eduard, Gabriele D'Annunzio ha arruolato un battaglione di eroi per riprendere Fiume. Da dietro le quinte, Lisa gli manda baci. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.